Buonasera, cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Dallo studio di Bruxelles un saluto da Annalisa e in regia questa sera Claudio. Buonasera Claudio, grazie per il supporto. Buonasera. In collegamento dovrebbe esserci come sempre Alessandra. Buonasera Alessandra. Buonasera Annalisa e buonasera anche al nostro regista Claudio e grazie mille per aver accettato di essere il nostro regista di trasmissione questa sera. Dunque Alessandra, quindi buonasera e questa sera un giro di boa come sempre al passo con l'attualità. Torniamo ad occuparci di un tema che abbiamo già trattato in precedenza, ci occupiamo di Libia. A 4 mesi dal termine delle operazioni aeree della NATO, la Libia del post Gheddafi sembra essere sprofondata nel caos, il governo transitorio non controlla il territorio, numerose sono poi le testimonianze di torture e barbarie sui prigionieri lealisti, coloro che erano fedeli a Gheddafi. Cerchiamo questa sera di fare il punto della situazione con il contributo del nostro ospite in collegamento telefonico. Sì, il nostro ospite che è già in collegamento telefonico e anzitutto volevo presentarlo, si tratta dell'onorevole Pier Antonio Panzeri. Onorevole Panzeri, ci sente? Sì, sì. Grazie mille per il tempo che ci dedicherà questa sera e grazie mille soprattutto per la pazienza che ha già dimostrato in apertura a causa di qualche problema tecnico. Dunque dicevo, l'onorevole Pier Antonio Panzeri è membro del Parlamento Europeo per il gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti Democratici, è membro della Commissione Affari Esteri e presidente della Delegazione per le Relazioni con i Paesi del Maghreb e dell'Unione del Maghreb Arabo. L'onorevole Panzeri è stato di recente nella Libia del dopo Gheddafi e con la prima delegazione di eurodeputati in Libia dalla fine della guerra. Dunque, onorevole, incomincerei con una domanda molto generale. Lei si è recato in febbraio a Tripoli e a Bengasi. Come ha trovato queste città? Che clima si respira? Sono città disarmate oppure le bande armate, i clan controllano ancora parti della città? No, la situazione è ancora una situazione molto, molto confusa. E l'impressione sostanzialmente è che anche il Consiglio Nazionale di Transizione in qualche modo abbia molte difficoltà a governare questo processo. Oggettivamente ho trovato il Consiglio Nazionale molto indebolito e in cui la credibilità tende a diminuire. Il problema principale che oggi la Libia ha non è solo quello di costruire l'itinerario per uno sbocco democratico. Il primo problema principale è quello di togliere le armi a tutte le persone che sono state armate e stiamo parlando di una cifra che è molto grande, più di 150.000 persone, le quali sono raggruppate in brigate, in fazioni. Effettuano checkpoint ovunque e molte volte confliggono tra di loro. Diciamo che siamo dinanzi ad un equilibrio per così dire molto precario, in cui però non emerge assolutamente ancora l'idea di uno Stato. Ecco. Quindi questo è il problema principale che io ho riscontrato nelle due città che ho visitato. Lei comunque parla di equilibrio, dunque la situazione non è molto profondamente tragica come magari a volte si legge sui resoconti e le testimonianze delle organizzazioni non governative di abusi eccetera. No, per questi ci sono, perché non so dire la quantità, ci sono perché ovviamente quando siamo dinanzi a situazioni di questa natura, per così dire, la vendetta è quasi pane quotidiano. Ma le voglio raccontare un piccolo esempio di siamo andati a cena con il ministro, la ministra perché è una donna della salute, finita la cena è salita sulla sua macchina, è stata fermata in uno di questi improvvisati checkpoint e volevano praticamente rubarle la borsa e lei sostanzialmente ha tentato di dire ma guardate che io sono ministro di della Libia, per dire insomma lo stato della confusione che regna ancora oggi. Quando parlo di equilibrio, parlo di un equilibrio però che è molto forzato, ecco, bisogna assolutamente accelerare il percorso, io non so se saranno in grado di mantenere la data del 21 giugno delle elezioni. So per certo che comunque l'Unione Europea deve svolgere un ruolo molto importante, perché sulla Libia ha giocato molto del proprio futuro l'Unione Europea, e se non dovesse essere in grado di aiutare a raggiungere l'obiettivo, è chiaro che ne avrebbe delle ricadute alquanto negative. Onorevole, ha parlato di transizione verso le elezioni del 21 giugno, ha parlato di Unione Europea. Ecco, può ricordare ai nostri radioascoltatori quali sono le tappe previste in questo processo di transizione, quindi che porteranno ad un governo democraticamente eletto, e si può anche raccontare e parlare ai nostri radioascoltatori di quali iniziative concretamente l'Unione Europea sta mettendo in pratica per sostenere la Libia in questo processo di transizione? Ma guardi, la scadenza più ravvicinata, ripeto, se sarà mantenuta, è appunto quella del 21 giugno, sono le elezioni. Queste in qualche modo dovrebbero, lo metto tra virgolette, liberare il processo democratico, avere finalmente un Parlamento e poi ovviamente un governo consolidato e così via. Quindi questa è la prima tappa. Se viene rispettata, come io mi auguro, ovviamente vuol dire che ci avvieremo, tenteremo di avviarci verso. Bisogna sempre non dimenticare che la Libia è un caso un po' particolare, ci sono ancora realtà tribali, non c'è mai stato un senso di appartenenza allo Stato, ed è la cosa principale per la quale si sta lavorando. Per parte nostra, l'Unione Europea sta fornendo una serie di mezzi, di strumenti, non solo di natura finanziaria, ma anche di sostegno alla democrazia, cioè la possibilità di formare sul campo le strutture democratiche, il Parlamento, perché bisogna oggettivamente insegnare dalla lettera A, perché in questo paese, con la presenza del vecchio regime di Gheddafi, non c'era assolutamente nulla. Nulla che noi possiamo considerare sostanzialmente struttura democratica, sto parlando del Parlamento, del governo, tutte quelle cose che sono importanti per un paese sostanzialmente. Ecco, quindi stiamo fornendo mezzi, attrezzature e formazione per realizzare questi obiettivi. Onorevole, la Libia appare sprofondata nel caos. Molti paesi che combatterono nel cielo di Gheddafi non hanno intenzione di inviare truppe sul terreno. Il governo transitorio, come lei ce lo descrive, non controlla pienamente il territorio e gli spazi aerei e marittimi, come anche le frontiere. Dall'altro canto aumentano inevitabilmente i segnali di infiltrazione nel paese di Al-Qaeda. Secondo lei questa è una paura fondata, reale? Allo stato attuale direi di no, intanto perché l'Unione Europea si è incaricata, tra i tanti impegni, di effettuare sostanzialmente il controllo delle frontiere. È stato affidato all'Unione Europea, certo è che siamo in un territorio vasto in cui i confini sono confini scritti sulla carta, ma non si sa assolutamente bene perché è tutto deserto, ma insomma questo è un impegno. No, credo che la cosa più preoccupante dal punto di vista di possibili attività terroristiche non siano oggi nella Libia del meridionale, ma la mia impressione, l'impressione che ne ho ricavato e comunque da ciò che vedo anche in altri paesi, è che la parte Tuareg che è sfuggita sostanzialmente alla Libia si è trasferita verso la zona del Sahel, nella zona del Mali e del Niger, e lì in qualche modo si è messa al servizio della rete di Al-Qaeda del Sahel, e quindi lì trovo la situazione più preoccupante, più che in Libia. Certamente bisogna tenere gli occhi aperti, e ovviamente il compito dell'Unione Europea insieme alle autorità libiche è quella di fare in modo che le frontiere siano sufficientemente controllate. Onorevole, abbiamo parlato quindi di un paese sprofondato nel caos, milizie, clan rivali, ci sono anche testimonianze di casi di pulizia etnica nei villaggi pro-Gheddafi, per esempio una serie di villaggi nella zona di Nafusa, un'ora e mezzo da Tripoli, dove ci sono paesi fantasma, svuotati, dove addirittura è vietato entrare, dove pare che 50.000 persone siano dovute fuggire. Questo si potrebbe pensare, speriamo di no, potrebbe essere il futuro che potrebbe attendere le minoranze pro Bashar Assad in Siria, qualora dovessero trionfare i gruppi della guerriglia rivoluzionaria in Siria. Secondo lei è possibile che anche la Siria possa sprofondare in una stessa situazione di caos e ingovernabilità qualora il regime dovesse cadere? Secondo lei qual è l'impatto della situazione in Libia post-Gheddafi su come l'Occidente sta valutando il suo approccio alla crisi invece in Siria? Intanto direi che bisogna dividere, non sono uguali, lo scenario libico è una cosa, quello siriano è un'altra. C'è un altro anche per le ragioni strategiche che le diverse realtà regionali stanno proponendo. Per quanto riguarda la Libia, devo dire che i paesi che sono intervenuti hanno prodotto quel risultato di liberare il paese da Gheddafi, ma insomma hanno anche incassato. Io penso, così mi pare di capire, che la stessa Francia, che pure non aveva una grande presenza in quel paese, ha raddoppiato le proprie fonti energetiche e quindi in qualche modo la guerra fatta l'ha ripagata la Francia dal punto di vista economico e finanziario, dal punto di vista energetico. Il problema principale adesso dell'Unione Europea e degli Stati membri è che devo mettere in campo un'iniziativa molto forte per fare un'operazione molto semplice ma però complicata nello stesso tempo: ricostruire le strutture dello Stato. Fra le strutture dello Stato ci sono i militari, c'è l'esercito, c'è la polizia e così via. Molti di coloro che oggi sono i cosiddetti guardiani della rivoluzione, che hanno combattuto per liberare il paese, sono quei 150.000, dovranno essere assorbiti per fare questo esercito, per fare il corpo, per dare insomma un minimo di sicurezza al paese. Alla domanda fatta al capo di Stato Maggiore libico di quante persone oggi contava l'esercito, non è stato in grado di rispondere perché non lo sapeva. Quindi bisogna ripartire davvero dall'inizio, per così dire. In Siria siamo di fronte ad una situazione molto particolare: l'atteggiamento di Cina e Russia non permette assolutamente di dispiegare tutta la forza della comunità internazionale. Penso che sia non proponibile allo stato attuale l'idea di un intervento come quello ipotizzato sulla Libia, perché la Siria oggettivamente è in un contesto strategico che può produrre un effetto domino poco controllabile. È necessario effettuare una pressione molto forte dal punto di vista della comunità internazionale, dell'Europa, costruire l'idea di un corridoio umanitario. E oggi bisognerà probabilmente entrare nell'ottica di spiegare al regime, ad Assad sostanzialmente, che può anche essere fautore della transizione purché la transizione si faccia, perché altrimenti è chiaro che bisognerà passare ad altre iniziative. Però ritengo che la situazione siriana, nella sua tragicità e anche nella complessità, sia sostanzialmente molto ma molto diversa da quella libica. Onorevole Panzeri, io avrei un'ultima domanda. Mi interessava sapere i lealisti, quanti sono ancora in vita, e soprattutto ce ne sono ancora che combattono. Lei prima citava numeri dallo Stato Maggiore per quanto riguarda un ipotetico futuro esercito libico. Secondo lei quando effettivamente si potrà parlare di esercito libico, cioè nel senso che non ci saranno più bande armate di lealisti oppure anche di altre tribù? Queste persone che sono state armate, e vorrei ribadirlo questo, sono state armate dai paesi che sono andati a combattere lì, perché bisogna a questi togliere le armi. Ovviamente queste persone che sono armate fanno un ragionamento molto semplice: possiamo abbandonare le armi a due condizioni. La prima è come finisce la Libia, e quindi bisogna dare certezza in questo percorso. La seconda è che vogliono un'occupazione, e da quanto abbiamo potuto intuire, il progetto che il Consiglio Nazionale di Transizione sta mettendo in campo insieme al governo è quello di assorbire circa 25.000 persone tra il corpo di polizia e l'esercito. È una cifra molto importante, ma di gran lunga inferiore a quella di 150.000 persone. Qui bisognerà fare un lavoro molto profondo, perché c'è anche un problema di ricollocazione di queste persone, e questa ricollocazione non è semplicemente una ricollocazione di natura lavorativa, ma anche una ricollocazione sociale, e direi anche una ricollocazione nella società dal punto di vista psicologico, perché è gente che ha combattuto e che quindi si trova in condizioni particolari. Quindi è un lavoro molto mirato che deve essere fatto. Anche in questo caso credo che l'Unione Europea possa sostenere attraverso i propri strumenti, i propri mezzi e anche le proprie risorse umane, aiutare sostanzialmente a risolvere questo tema, che è il tema principale che io ho visto in questa visita. Onorevole, abbiamo qui dallo studio un'ultime due domande prima di chiudere. Io un'ultimissima domanda, abbiamo parlato ancora di una situazione di caos, di ingovernabilità, le vorrei chiedere se durante la sua missione ha riscontrato già qualche aspetto positivo nel processo di ricostruzione, se si sente ottimista magari per alcuni aspetti che ha riscontrato. E anche Claudio dalla regia, un'ultimissima domanda prima di chiudere. Sì, onorevole, abbiamo parlato prima brevemente di Siria, della tensione che c'è in questo paese, e mi chiedevo, volevo porreggiare una domanda rispetto al Libano, il ruolo del Libano in questo momento. Allora, innanzitutto la prima domanda, sì, sono abbastanza fiducioso, perché ritengo che non ci siano alternative alla costruzione di un itinerario democratico. Credo che una buona parte dei libici si stia accorgendo di questo, che sta superando, per così dire, la logica tribale, e la sfida che stanno ingaggiando è proprio quella della costruzione di uno Stato e soprattutto di dare un senso di appartenenza allo Stato. E ovviamente il percorso non è semplice, perché, come ho tentato di dire nelle cose che ho detto prima, ma io sono fiducioso e credo, però questa fiducia può essere oggettivamente confermata complessivamente la comunità internazionale, e l'Unione Europea in particolar modo affronterà di petto la questione e sarà, per così dire, sul pezzo costantemente per aiutare questo paese a ritrovare le ragioni della democrazia. Per quanto riguarda il Libano, non c'è dubbio che, come ho detto prima, la questione siriana ha effetti anche su questo paese. Penso allo stato attuale, che c'è un generale equilibrio. Non ho visto nell'atteggiamento di Hezbollah particolari velleità rispetto alla vicenda siriana. Senza dubbio, però, se dovesse esserci una situazione come quella che abbiamo verificato in Libia, ma che, come vi ho detto prima, secondo me non è perseguibile, non è possibile, è chiaro che avremmo immediatamente una ricaduta sul Libano, avremmo una ricaduta sull'Iraq, avremmo una ricaduta sulla Turchia, e ovviamente avremmo anche un problema molto serio nella gestione del conflitto medio orientale tra Israele e Palestina. Quindi, per questa ragione, questo precario equilibrio esterno alla Siria va assolutamente mantenuto, va isolata la questione siria dal contesto complessivo, e avendo presente che c'è un contesto complessivo, altrimenti rischiamo di avere delle derive, direi, non belle. Onorevole, siamo arrivati, malgrado l'interessante contributo, alla chiusura del nostro collegamento in quanto non abbiamo più tempo da dedicarle. Annalisa, volevi aggiungere qualcosa? No, nessun'altra domanda da studio. Onorevole Panzeri, la vorrei ringraziare ancora una volta per essere intervenuto a giro di boa, un contributo il suo molto, molto interessante. Speriamo di riaverla ancora in futuro ai nostri microfoni e vorrei augurarle buon lavoro. Arrivederci. Grazie e buon lavoro a voi. Buon lavoro a lei, Panzeri. Facciamo ora una pausa musicale. Siete tornati all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Il tema di questa sera, Giro di Boa, è la Libia. Cerchiamo di fare il punto della situazione a 4 mesi dal termine delle operazioni aeree della NATO, un momento in cui la Libia sembra essere sprofondata in una situazione di caos e di ingovernabilità. Secondo ospite in collegamento telefonico. Il secondo ospite di questa sera è in collegamento con noi, si tratta di Uda Gashu. Uda, ci senti? Sì, vi sento molto bene. Buonasera Uda, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Uda è già consigliere libico presso l'Agenzia delle Nazioni Unite a Ginevra, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è ora consulente al Centro di Prevenzione del Servizio di Salute della Riproduzione in Libia. Uda abita a Tripoli, ha vissuto in prima persona l'inizio dell'offensiva della NATO dell'anno scorso. Giro di Boa stabilì il primo contatto con Uda già l'anno scorso a fine febbraio, grazie ad una conoscenza in comune. Per ragioni di sicurezza però all'epoca si era deciso di rimandare a tempi migliori la chiacchierata che Uda era ben disposta a fare con noi. Dunque Uda, un anno dopo eccoci qui durante tempi migliori o comunque senza bombardamenti su Tripoli. Ti vorrei chiedere che cosa è successo in quest'anno, ci potresti raccontare brevemente come è cambiata la tua vita in questi ultimi 12 mesi? Senti, forse vedendo le cose da fuori della vita di ogni libico, la gente potrebbe pensare che forse è stato un periodo difficile che non valeva la pena, ma infatti è stato un cambiamento radicale, nel senso che noi vivevamo da 42 anni in una dittatura che aveva fatto perdere a ogni essere umano nella Libia la sua dignità e la sua libertà e anche il fatto di sentirsi libico, anche tutto era perduto e si viveva veramente nella speranza che un giorno ci sarebbero giorni migliori e a un certo punto non ci credevamo proprio più. Quello che è successo in questo ultimo anno è stato veramente, nonostante le perdite delle vite, nonostante tutti i feriti, nonostante tutta la distruzione, è stata comunque per noi libici una rinascita, un inizio per un domani migliore. Siamo tutti nel cuore felicissimi, siamo contenti, abbiamo tanta speranza di cambiare le cose, costruiremo il nostro paese. Sappiamo che abbiamo passato un anno molto difficile, ma è stato un anno per noi che era stato molto decisivo, quindi per noi veramente l'inizio di una vita che sarà forse difficile a costruire, ma sarà sicuramente molto migliore di quella vita che era falsamente sembrava una vita normale, ma invece no, era una grandissima prigione. Uda, quindi la tua è una sensazione quindi una sensazione di ottimismo e di speranza verso il futuro, ripeto, nonostante quello che noi leggiamo sui giornali e il tipo di informazioni che noi riceviamo al momento sulla Libia. Ne parlavamo con il primo ospite in collegamento su questo tema, dove si parlava di una situazione molto confusa in Libia, di una situazione di ingovernabilità, con la presenza di milizie armate, rivalità, clan rivali, addirittura pulizia etnica in certi villaggi, in certi villaggi, torture e prigionieri torture e barbarie sui prigionieri lealisti. Ecco, tu, nonostante questa situazione, ti senti comunque ottimista e guardi al futuro con speranza? Queste informazioni non sono veramente corrette, non sono corrette per niente, nel senso che tantissime volte semplicissimi casi di criminalità che esiste in tutti gli altri paesi è sempre qui in questo momento spiegata come un atto barbarico, un crimine di tutti i giorni, dei problemi di rivalità che nei giorni normali sarebbero stati veramente crimini comuni, oggi è subito mediatizzata e poi spiegata come se fosse un atto di, come dici tu, di odio o di rivalità tra comuni, invece sono solo dei atti criminali. Oggi possiamo dire che veramente, perché in Libia, comparendo, io ho vissuto in tantissimi paesi, ho fatto anche tanti paesi dove c'erano difficoltà, per un paese che esce da una guerra e da un regime di dittatura dove noi non avevamo strutture, non avevamo società civile, tutto era fatto in un modo per servire al sistema e non per servire il paese, quindi una volta che questa dittatura è caduta non c'era niente che rimpiazzava, quindi il paese adesso cerca di essere preso in controllo senza l'esistenza di sistemi, quindi è molto più difficile che in un altro paese. Ma se prendiamo in considerazione tutte queste difficoltà, la situazione oggi è molto, molto, molto migliore di quello che noi ci aspettavamo. Già la liberazione di Tripoli, avevamo creduto che sarebbe stato un bagno di sangue e nonostante i morti è stato molto, molto di meno di quello che pensavamo. Sì, ci sono problemi, ma sono problemi per rapporto a quello che poteva essere, che potrebbe essere molto molto inferiore di quello che ci aspettavamo. Ci sono milizie, ma sono poche le milizie che sono fuori del controllo. Per adesso non ci sono azioni, come dici tu, di criminalità o di purazione etnica, come non è vero, queste non ci sono state. Ci sono stati dei conflitti nel sud del Kufra che erano iniziate tra rivalità per terreni, ma poi ci sono stati comunque delle interferenze per interessi di persone chi hanno ancora contatti con il regime di Gheddafi. E anche ci sono un po' un'interferenza straniera dal Sudan e dal Chad, quindi oggi le cose sono sotto controllo, bisogna poi il governo non governa, no, il governo sta governando, soltanto che la situazione è ancora molto difficile, abbiamo avanti delle elezioni. Bisogna spiegare a un popolo che non ha mai fatto la pratica della democrazia come prendere in mano la sua vita, non è cosa semplice, ma io penso che tutte queste difficoltà avremo la possibilità di sorpassarle. Uda, parlavi diciamo dei cambiamenti, sei molto positiva in questo, dei cambiamenti rispetto al periodo di Gheddafi, oltre 40 anni di regime. Quali 42 sono, anni, sì. Sì, quali sono i cambiamenti immediatamente percettibili per i cittadini di tutti i giorni? Quali sono i cambiamenti? Senti, quello che è più percettibile, sì, la vita di tutti i giorni. Oggi ancora la Libia non ha i soldi in mano, non ha ancora il controllo economico della sua vita, quindi anche se poi i soldi gelati sono stati degelati, ma poi per averli, recuperarli e usarli non è ancora cosa fatta. Ricominciamo a vendere già il petrolio a quasi, siamo arrivati quasi alla quota della prima della guerra, cominciamo a prendere su controllo moltissime cose, ma la mancanza di soldi posa qualche problema, non abbiamo ancora la fluidità che ci vuole, di cui abbiamo bisogno, in più abbiamo tantissime spese che sono state fatte, la cura dei feriti, la mancanza di servizi ospitalieri nel livello che ci vorrebbe, e quindi siamo stati obbligati di inviare i malati fuori, che ci costa moltissimo. Non sono piccole cose. La percezione del cambiamento è, prima di tutto, è veramente nel sentirsi oggi veramente in possesso del nostro destino. La sensazione di libertà, non conoscevamo questo sapore di libertà, di poter pronunciare i nostri pensieri, di dover parlare, di poter dire oggi al governo: non siamo contenti di quello che fate, non fate abbastanza, non siamo contenti di quello, vorremmo questo. La società civile che comincia a costruire, poter mettersi in gruppo, parlare, pensare a come aiutarci e cosa vogliamo fare della nostra vita, del nostro paese. Queste cose non le conoscevamo, e quindi per noi, nonostante che intorno a noi non è cambiato molto, nel senso che chi ha una macchina vecchia ancora quella macchina vecchia, abita sempre nella stessa casa, magari anche mancano delle cose che prima aveva, ma c'è questa sensazione di libertà e di far parte del paese, di far parte del proprio, ed avere nelle mani il proprio destino, che è una cosa incomparabile, quindi che varrà la pena che soffriamo ancora per qualche anno, finché avremo messo a posto il governo che vogliamo, la Costituzione, perché noi dobbiamo anche costruire e scrivere la nostra Costituzione, quindi veramente non abbiamo niente, siamo quelli che devono rifare il loro paese da zero. È molto difficile, ma non capita a tutti. Non capita a tutti di dover essere lì a decidere del tipo di costituzione, di tipo di governo, del tipo di paese che si vuole avere e in cui abbiamo voglia di vivere noi e i nostri figli. Quindi sappiamo anche che abbiamo una possibilità unica, che forse moltissimi vorrebbero essere al nostro posto, forse non nel posto di quelli che hanno avuto una guerra, ma era veramente al posto di quelli che possono decidere il proprio futuro. Uda, purtroppo siamo giunti in chiusura di trasmissione, non abbiamo più tempo per ulteriori domande, ma dallo studio ti vorrei ringraziare per il tuo interessantissimo contributo alla trasmissione di questa sera e per avere soprattutto portato la tua prospettiva personale, per noi una nuova prospettiva su questo tema di cui qui a Giro di Voci siamo occupati diverse volte. Quindi un grazie da parte mia qui dallo studio. Vorrei solo aggiungere che le media, le informazioni che trasmettono le media sono sempre trasfigurate e le cose brutte messe si mettono in prima pagina e non si parla per niente di tutte le cose positive che oggi succedono in Libia. Grazie mille Uda, anche da parte mia, da parte di Alessandra, e un grossa in bocca al lupo alla Libia per tutto il lavoro che avete davanti a voi. Grazie Uda. Ciao. A risentirci alla settimana prossima. Buona serata. Buona serata.